Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Nuovamente un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi tocchiamo un argomento che di sicuro è d'attualità, perché sappiamo che il problema delle case è un problema grossissimo, sia per chi magari vorrebbe cambiare casa, vorrebbe venderla, sia per chi la cerca, perché è cambiato tantissimo il mercato immobiliare. Sono molte le persone che magari non riescono ad avere la possibilità di fare un mutuo e quindi vanno in affitto, e poi magari si ritrovano a non avere i soldi per pagare lo stesso affitto. Cosa è successo? Succede che molti proprietari di case si rivolgono anche all'Adico per cercare un aiuto, per cercare insomma di trovare una soluzione, perché sono molte le persone che non riescono più a pagare l'affitto. Sì Francesco, io ti dirò che innanzitutto a tal proposito abbiamo voluto verificare nel 2014 le ultime 100 pratiche a chi erano rivolte in questo argomento, e abbiamo scoperto che 42 casi si rivolgono a Padova, 35 a Venezia e a 28 a Treviso, quindi Padova è uscita un pochino più malconcia su quello che sono i nostri dati diffusi in questa rubrica. Certamente abbiamo scoperto come ci sono molte persone che, oltre ad essere messe in ginocchio dalla crisi, vengono proprio si trovano ancora più in difficoltà, proprio perché si vedono meno garantire quell'entrata dall'affitto di cui magari o con i soldi di una liquidazione investita per comprare un appartamentino in attesa poi di darlo al figlio, oppure abbiamo un caso di una signora anziana che si è trasferita dalla figlia per poter essere assistita e ha messo in affitto la sua abitazione contando proprio dall'introito potersi un attimino salvaguardare o insomma sostenersi meglio per quelle che erano le sue spese. Ci sono molte persone che non pagano l'affitto e di conseguenza mettono in crisi queste famiglie che sinceramente, rispetto a quello che è un sistema che tende a salvaguardare chi più magari non paga o fa il furbetto, espone maggiormente e salvaguarda meno chi invece l'affitto dovrebbe vedercelo percepire di diritto. Sì, perché poi magari gli stessi proprietari di questo appartamento hanno comunque le spese straordinarie di gestione e via dicendo, e quindi diventa una cosa che non è sostenibile, insomma. Sì, certamente diventa una cosa che non è sostenibile, oltre alle tasse, che ricordiamo che poi quando uno tira l'affitto normalmente la metà se ne vanno in tasse sia per il reddito percepito per effetto di quello che è il loro un reddito complessivo che va ad aumentare, sia per effetto di quelle che sono l'IMU, la TASI, che insomma ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. Però certamente è una situazione di cui le persone quando vengono all'Adico lo fanno dopo non aver percepito l'affitto per 3-4 mesi e di cui chiedono informazioni al nostro sportello Sfratti Condominio, che in questo senso se ne occupa. Esattamente l'attività che il nostro ufficio andrà a fare è quella di mettere in mora l'inquilino invitandolo a pagare, dopodiché se la persona non paga si procede con uno sfratto esecutivo che viene messo normalmente dal tribunale. Se nel caso di uno sfratto esecutivo l'inquilino non invoca il termine di garanzia, cioè quello che entro 90 giorni paga tutti gli arretrati e si mette in regola con la loro posizione, quindi può essere revocato lo sfratto esecutivo, si passa proprio a un'azione di sgombero, che normalmente le tempistiche e le modalità possono variare a seconda se ci siano presenza di minori o di handicap, portatori di handicap, ma che certamente, anche se si può allungare la pratica di qualche mese, non può certamente essere, e noi diciamo anche per alcune persone fortunatamente, evitato. È una situazione che comunque l'Adico cerca sempre di risolvere invitando le persone a dialogare o rientrare da quelli che sono degli arretrati, anche facendo una rateizzazione dell'importo, e che certamente comunque cerca un attimino anche di valutare le posizioni casa per casa, perché poi normalmente scopriamo sì, ci sono delle persone in difficoltà che non riescono a pagare, ma ci sono anche molti furbetti che ormai hanno imparato anche a destreggiarsi bene su quello che è un sistema in Italia ormai sta diventando sempre più consolidato, ed è quello di salvaguardare un pochino chi è meno onesto per certe cose, è meno adempiente. Ricordo per ultimo che il 37% di questi morosi si tratta di extracomunitari. Ho capito, quindi insomma c'è qualcuno che come dire tira l'acqua al proprio mulino e ritarda sistematicamente i pagamenti, proprio approfittando un po' del periodo di difficoltà generale. Beh, a vedere come il caso della signora anziana che non arriva a curarsi perché qualcuno non paga l'affitto, e certamente non era disoccupato ma semplicemente se n'era quasi, come dire, appropriato, riteniamo che molta clemenza in questo caso non sia neanche giusto invocarla. Altro caso, situazioni invece sono chi magari perde il posto di lavoro o è disoccupato, ma allora qua ci sono altri fondi, altri modi di poter risolvere le controversie. Io parto dal presupposto di chi veramente ha un contratto e assume un impegno e sostanzialmente non lo onora, mettendo in difficoltà chi magari ha saputo anche dare una mano, come in molti casi, per cui tutte situazioni che insomma possono scombinarci la vita, ma che vale la pena anche che le persone insomma conoscono e sappiano comunque che per qualsiasi problema cioè, possono sempre rivolgersi all'Adico e allo sportello asfalto e condominio e ricevere la consulenza e l'assistenza gratuita. Assolutamente importante quindi insomma entrare in contatto con l'associazione Difesa Consumatori, proprio questo è quello che dovete digitare nella rete, mettendo poi il punto IT finale per accedere al sito dell'Adico e quindi poi a tutti i riferimenti per entrare in contatto con l'associazione. Grazie al presidente Carlo Garofolini, alla settimana prossima. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.